Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da giugno a luglio del 1860. Garibaldi e i suoi conquistano la Sicilia, a Milazzo la vittoria decisiva. Cavour manda De Pretis per frenare il generale, i Borbone cercano l'accordo con Torino. Religiosi contro evoluzionisti, si infiamma il dibattito in Inghilterra. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura andiamo in Sicilia, dove la spedizione guidata da Giuseppe Garibaldi ha ottenuto successi che di fatto consegnano l'isola al Piemonte. Hanno colpito due della Bergamo. La Sicilia è tutta nelle mani di Garibaldi. Il 20 luglio a Milazzo i garibaldini hanno perso 800 uomini contro i 150 dei borbonici, ma hanno vinto. E il 28 luglio il generale Tommaso Clarì, con le camicie rosse ormai a Messina, ha siglato una convenzione che lascia loro l'isola in cambio di una ritirata onorevole e sicura verso Napoli. Sembra incredibile, ma alla fine l'avventura siciliana è stata un successo e rispetto a tre mesi fa tanto davvero è cambiato. La presa di Palermo a inizio giugno è stata seguita dalla nomina di Crispi alla guida del governo, ma in quei giorni a Palermo è giunto anche l'uomo di Cavour, Giuseppe La Farina, che contro Crispi ha scatenato una campagna formidabile accusandolo di malgoverno. In effetti la gestione della città e della Sicilia occidentale non è per niente facile. Garibaldi ha trovato sì nella zecca e nel Regio Banco 134.000 ducati, ma la città è stata cannoneggiata dai borbonici, per le strade c'erano cadaveri e macerie e gli ammazzamenti, nonostante la legge marziale, non si contavano. E così La Farina è riuscita a convertire tanti liberali, qui da sempre autonomisti, alla causa dell'annessione al Regno di Sardegna. Il piano di Cavour è semplice: prima avviene l'annessione, prima Garibaldi viene normalizzato. Il generale infatti non vuole l'annessione subito, vuole, si dice, arrivare a Roma. Ma allora l'Italia sarebbe un regalo di Garibaldi a Vittorio Emanuele, che ne uscirebbe sminuito. E così, quando Garibaldi, per riprendere la guerra e liberare la Sicilia orientale, ha chiesto a Torino che gli venisse inviato Agostino De Pretis per sostituirlo come pro-dittatore, Cavour, prima di lasciarlo partire, lo ha ben istruito. Bisogna far dichiarare subito l'annessione. De Pretis, che è un uomo di sinistra, non ha obbedito, ma ha importato in Sicilia le leggi rattazziane e lo statuto albertino. Intanto, anche a Napoli, di fronte al tracollo, Francesco II, guidato dal principe di Satriano, Carlo Filangeri, ha concesso la Costituzione, ha adottato il tricolore, proclamando l'intenzione di stringere un patto federativo con Torino. Forse però è ormai troppo tardi. Quello che ieri Cavour avrebbe accettato come una straordinaria opportunità sembra ormai, anche in Piemonte, un tradimento della causa nazionale. Paolo Piacenza, Il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Andiamo all'estero, in Inghilterra, all'Università di Oxford, dove si è tenuto un dibattito che ha infiammato gli animi degli studenti. Scontro al calor bianco tra il biologo Thomas Henry Huxley, acceso sostenitore della teoria evoluzionista proposta l'anno scorso da Charles Darwin, e il vescovo Samuel Wilberforce. Is it through your grandfather? Come sentite nell'audio che abbiamo raccolto, il prelato ha chiesto ad Huxley se crede di discendere dalle scimmie per parte di suo nonno o di sua nonna. Huxley ha risposto duramente, dicendo che preferisce discendere da una scimmia piuttosto che essere messo in relazione con un uomo che infanga un serio dibattito scientifico e nega la verità. Ed è tutto. Sul nostro sito potete scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il blog, la pagina Facebook, lasciateci un commento a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.